stesso, me stesso mi fa. Giubilo lo, giubilo lo, e vive stesso, ma giù mi fa. E vive stesso, ma giù mi fa. E vive stesso, ma giù mi fa. Ma giù mi fa, ma giù mi fa. Thank you. Fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiavazzo va crescendo. Prende forza poco poco, vola già di loco in loco. Sempre il polo, la tempesta, c'è nel senso il campo, resto, ma ti scanto troppo, l'anno, che ti fate l'orge, l'anno, con la pintra, volta, soffia, si propaga, si raddoppia, e produce l'esplosione, come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tumulto generale, che fa l'aria ricombando, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tumulto generale, che fa l'aria ricombando. Ehi, meschino calunniato, avvilito, calpestato. E allora? Sotto il pubblico flagello per la sorte va a crepar. Ehi, meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepare. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello.

fulmina, donne, donne, fermi, dei. Queste scuse, signorina, a un dottor della mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio impostorar, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio impostorar, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio impostorar, sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio impostorar. Fallo cortellaria sempre queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in vostro lar, un po' meglio in vostro lar, un po' meglio, un po' meglio in vostro lar. Alla ragazza il ricamo sul tamburo vi scottaste e via e via, ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro, ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca anche il foglio, posso per cotesti imbroglio, perché manca anche il foglio, sono inutili le smorfie, fermala, non mi toccate, fermala, non mi toccate, no, figlia mia, non lo sperate, ch'io mi lasci. No, no, figlia mia, non lo sperate, io mi lasci in filo, Paolo con bell'aria sotto queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in vostro lar, un po' meglio in vostro lar, un po' meglio, un po' meglio in vostro lar. Via cadu, confessate, son disposto a perdonar, non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate, so benino che le ho da far, so benino quel che ho da far. Signorina, un'altra volta che lo parla da fuori, signorina, un'altra volta che lo parla da fuori, la consegna è servitoria, sopra la cosa per là. Signorina, un'altra volta che lo parla da fuori, signorina, un'altra volta che lo parla da fuori, la consegna è servitoria, sopra la cosa per là. E non sei non le morta, sta pure la catta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la catta morta. Questo poi quella porta, questo poi quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, ne potrà. Ma Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non sei non le sforzi, faccia pure la catta morta, questo poi quella porta, nemellare, ne potrà. E non sei innocentina, e non sei innocentina, sono la disperata, sono la disperata, sono la disperata, sono la disperata, dico voglio, dico voglio, dico voglio. Sì, signorina un'altra volta quando vadano fuori, signorina un'altra volta quando vadano fuori, la consegna se vittoria insomma non saprà. Signorina un'altra volta quando vadano fuori, signorina un'altra volta quando vadano fuori, la consegna se vittoria insomma non saprà. E non sembra una smorta, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non sembra le smorfie, faccia pure la gatta morta, quella porta, nemmeno le mani, e non viene la sentina, e non viene la sentina, non viene la sentina, non viene la sentina, non viene la sentina, non viene la sentina, non viene la sentina, non viene la sentina, non viene la un dottor della mia sorte non si lascia in finocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in finocchia. E non si inventa sentita, consolata, disperata, mi sua cattera ferrata, mi mia voglia star con te, mi mia voglia star con te. Zitto solo, zitto qua, zitto là, zitto su, zitto là. Grazie.